voi anche l'occasione di conoscere questa piccola struttura che esiste in città da 10 anni ma che ha 19 ecco, quindi insomma forse anche meno di 9, facciamo 7, speriamo. Comunque siamo in attesa di avere una collocazione qui vicino all'ex Pascoli, più dignitosa e più spaziosa soprattutto. E nel frattempo organizziamo una raccolta di libri, non solo, di fotografie, di periodici, di materiale multimediale, di collegamenti, blog, eccetera, che riguardi il territorio, non solo esclusivamente l'Alto Adige o il Trentino, ma noi ci apriamo anche a tutto quello che può essere il Nord-Est. E questo ci ha dato ragione, tanto più che oggi appunto è confermata che è stato siglato il patto per la convenzione per aderire alla capitale nord-est della cultura. Quindi la nostra così impostazione di 10 anni fa di concepire il nostro territorio come collocato all'interno di un concetto ambientale, politico, geopolitico del nord-est e dei territori confinanti, quindi tutta la questione alpina e l'Austria, la Slovenia, eccetera, ci ha dato ragione, siamo contenti, la nostra collezione va avanti, in questo senso, e questo è il nostro concetto di locale. Ecco, di locale noi teniamo solo Bolzano. Motivo per cui, insomma, quando Luca Stefani ci ha proposto con grande entusiasmo di presentare il libro di Anton Giulio Orefice, noi abbiamo... e abbiamo accolto volentieri questa proposta, abbiamo così scelto l'orario della mattina, non facendo i conti con... alcuni problemi meteorologici, insomma, ecco, però è una scelta che abbiamo fatto in varie occasioni e che continueremo a proporre anche la prossima settimana. Abbiamo un libro di Marcotto alle 11 di mattina, quella successiva avremo quello di Frangipane alle 11 di mattina. Sì, sono necessità che emergono soprattutto nel periodo di dicembre, perché ci sono tante pubblicazioni e quindi la biblioteca vuole dare spazio a tutti, ma è impossibile lavorare qui tutte le sere fino alle 8, ecco, non ce la facciamo proprio. L'orario delle 11 è un orario interessante, fatta eccezione se proprio viene la neve, ma quello diventa, vale lo stesso discorso per la sera. Io ringrazio veramente l'autore di essere qui con noi, perché il caleidoscopio è veramente una similitudine, anzi una metafora interessante, ecco. Grazie. L'ho letto con grande interesse. E poi volevo ringraziare anche Luca Stefani, perché veramente ha promosso questa iniziativa con sapienza, con pazienza, ci ha portato tutte le informazioni, insomma, ci teneva, ecco. È un grande amico. Sì, sì, spero di essere anche alla fine. Va bene, grazie, permesso. Allora, una veloce introduzione, intanto ringrazio la dottoressa Trevisan e tutti i collaboratori della biblioteca per la gentilezza, la cortesia e per l'impegno che hanno messo nell'organizzare questo incontro. Brevi cenni sull'autore: Mario Antonio Orefice è nato a Villach in Carinzia nel 1962, la mamma austriaca e il papà napoletano, quindi diciamo un convivio di due culture, mediterranea e mediterranea. Ha frequentato il liceo classico a Vipiteno e poi, andando a Padova all'università, ha iniziato alcune collaborazioni artistiche. Diciamo che la natura di Orefice è eclettica, quindi ha fatto delle personali, perché ha fatto dei quadri, ha organizzato delle pièce teatrali e poi ha iniziato a collaborare con una serie di giornali, tra cui il Gazzettino e il Corriere della Sera. Ha proseguito questa sua attività durante appunto gli studi universitari, facendo il consulente per diverse aziende, tra l'altro alcune delle imprese edili più importanti della zona appunto di Treviso e del Veneto, e con le quali poi ho avuto anche la possibilità e la vicinanza di incontrare anche architetti importanti, tra cui Paolo Portoghesi, cioè uno degli architetti di fama nazionale e internazionale più importanti che ci sono in Italia oggi, con cui ha fatto anche un libro e in stampa un secondo libro, che è un'intervista appunto sulla, sull'architettura e sul ruolo che l'architettura ha nella, nella società. Oltre avvocato, oltre a questo ho pubblicato altri libri, tra cui segnalo una Pietra e l'acqua, che è un testo, un racconto, un saggio, se vogliamo anche così considerarlo, su Andrea Palladio. E sono stato appunto coinvolto nell'operazione di questo libro e lascio adesso la parola all'autore. Vi ringrazio di essere venuti. Allora, inizio anche dei ringraziamenti, grazie sicuramente alla biblioteca Claudio Augusta e alla sua direttrice, la dottoressa Trevisano, che ci accoglie questa mattina, e un grazie a Luca che è un amico di vecchia data ed è rappresentante, diciamo, di un valore raro, che è appunto quello dell'amicizia, che non si incontra sempre. Anzi, l'amicizia è qualcosa di molto fluido e che negli anni in qualche modo tende anche a svanire se non ci sono dei contatti che vadano al di là della memoria, dei ricordi, dei contatti telefonici. Un'amicizia ha bisogno, per essere mantenuta viva, di condivisioni di progetti, di momenti, di incontri. E devo dire che Luca in questo è sempre stato, non è mai venuto meno, ecco, in questa funzione di un'amicizia che va oltre il fatto di sentirsi per telefono e basta. Iniziamo questo viaggio nel libro Corsa dell'anima, che in realtà è un libro che io direi che è un libro aumentato. Oggi per libro aumentato si intende un libro che è legato ad alcuni dispositivi informatici come iPhone, per cui rispetto a determinati link questo libro può essere aumentato mediante la visione di determinati filmati visibile su iPad, eccetera eccetera. Quindi è un libro aumentato in senso un po' meno tecnologico, è un libro che deriva da un blog, che penso sappiate tutti cos'è. Il blog, in poche parole, è un diario in rete, e la cosa interessante è che il libro non è una diretta trasposizione del blog, ma il blog è usato come un taccuino d'appunti per la realizzazione del libro. D'altra parte, il libro in sé rimanda, seppur chiuso, seppur possiamo in qualche modo considerare il libro come una sorta di feretro, no? Perché il libro, una volta compiuto, una volta stampato, diventa qualcosa di definitivo, di morto, non è vivo, ha bisogno di qualcuno che a sua volta lo rianimi, altrimenti il libro giace, così per usare una figura, nelle biblioteche esattamente come le lapidi nei cimiteri. Sono parole mute collocate tra altre parole mute. E in questo senso questo libro invece tende, una volta uscito dalla biblioteca, a rimandare al blog, e il blog a sua volta rimanda al libro. È un libro anche pulviscolare, nel senso che venendo qui oggi c'era la neve che cadeva, e la neve mi ha richiamato un'immagine molto felice di Calvino. Calvino ha scritto molte cose, come voi sapete. Secondo me è uno dei suoi libri più brillanti, sono Le lezioni americane. Nel primo capitolo delle lezioni americane Calvino affronta il tema della leggerezza e fa vari esempi, tra cui De Rerum Natura di Lucrezio, che immagina questa materia pulviscolare, si immagina l'atomo prima ancora che venga scoperto. E questo libro è, diciamo, fatto un po' della stessa materia, non è un libro che si presenta come qualcosa di compatto, anzi apro una parentesi sulla neve. Sempre venendo qui e guardando la neve che cadeva, mi è venuta in mente un'altra pagina interessante. È una pagina interessante di Orhan Pamuk nel suo romanzo Neve. A un certo punto lui paragona i fiocchi di neve alla vita delle persone. Dice che in ogni fiocco è raccolto nel disegno particolare e assolutamente unico di ogni fiocco, è raccolto il destino di ogni persona. È un'immagine molto poetica. La prossima volta magari che guardate una nevicata, provate a immaginare per ogni fiocco il destino di una persona e delle mille persone che voi incontrate. Devo dire che questo mi porta anche a parlare della presentazione, come che sembra un momento, come dire, abbastanza istituzionale, no? La presentazione di un libro. E invece anche la presentazione di un libro, secondo me, è a sua volta una presentazione viva. È una presentazione in cui l'incontro ha un suo ruolo centrale. È in cui la scrittura non è solo la scrittura del libro, ma è la scrittura di tutti quelli che partecipano all'incontro, perché è vero che l'autore in qualche modo si presenta a voi, ma voi con i vostri volti vi presentate all'autore. E questo è estremamente interessante, perché introduce un'altra tematica molto bella, molto affascinante, ed è quella del volto come testo, del volto come scrittura, del volto che incontra l'altro esattamente come la scrittura e il commento alla scrittura e le scritture a loro volta si incontrano. E è certo che il momento dell'incontro è un elemento determinante. Voi, voglio dire, vivete a Bolzano e lo sapete. Io vivo a Conegliano e i problemi, per esempio, dell'incontro multietnico sono costanti, no? Però è proprio in questo gioco dell'incontro che si gioca una sfida quasi impossibile, nel senso che i nostri testi, un'altra bella espressione è il volto come volto del pensiero, quindi c'è un collegamento tra pensiero, volto, scrittura, incontro, ma non sono scritture immediatamente decifrabili, nel senso che quando noi ci incontriamo non abbiamo dentro di noi, per continuare nella metafora, una biblioteca, esattamente come la Claudia Augusta, no? Però è una biblioteca che per ognuno di noi varia, non è la stessa. Questo che cosa significa? Che quando comunichiamo, anche solo, come dire, nel pensiero, perché ognuno di noi quando guarda l'altro si fa un'idea dell'altro, legge appunto il volto dell'altro e lo interpreta secondo quella che è la sua biblioteca, quello che è il suo sapere, quello che ha alle spalle, e così fa l'altro. Naturalmente non ci sono biblioteche uguali, non ci sono riferimenti uguali, e quindi anche tra noi, diciamo bianchi, diciamo italiani, diciamo di media cultura, c'è un problema di far combaciare diversi significati, ma anche diversi significanti, nel senso che io ogni parola a cui io do un significato, perché è il suo significato originale, però gli do anche un significante perché la inserisco nel contesto di quella mia famosa biblioteca che mi porto dentro, l'altro, per l'altro il significante di quella parola sarà diverso. Quindi un filosofo come Derrida a questo punto dice: bene, ma siccome fondamentalmente parliamo lingue diverse, in realtà sarà impossibile l'incontro, cioè in realtà tenderemo noi ad imporre all'altro la nostra visione delle cose, anche in buona fede, o tenteremo di omologarlo a quella che ho chiamato la nostra biblioteca, e l'altro farà lo stesso. La cosa interessante è che alla fine non ci capiremo mai del tutto, anche nel corso di questa presentazione, non ci capiremo del tutto, cioè voi non capirete del tutto me e io probabilmente, se ascoltassi voi per mezz'ora, non vi capirei del tutto, però ci capiamo fino ad un certo punto. Cioè in questa sfida è impossibile di comunicare tra noi, sta, secondo Jacques Derrida, che è uno straordinario pensatore del Novecento, che purtroppo è morto nel 2004, sta una sfida etica che vale la pena di essere giocata. Perché mi soffermo sull'incontro? Perché credo che i libri si scrivano ancora prima che per passare ai posteri, si scrivano per incontrare delle persone, perché la scrittura e la lettura sono esercizi abbastanza solipsistici, e sulla scrittura poi sarebbe interessante soffermarsi sul fatto che la scrittura è qualcosa di non assistito, ma ci arriveremo tra poco, cioè non ha il padre, non ha il genitore che lo assiste, come quando noi parliamo, quando noi facciamo un discorso, in realtà con i nostri occhi, col tono della nostra voce, con i nostri gesti, accompagniamo il senso delle nostre parole e in qualche modo favoriamo anche la loro interpretabilità. Questo non accade nel testo. Il testo rinvia sempre ad altro, è una sorta di cartolina. E il tema della cartolina è ho trovato molto interessante e una bella coincidenza il fatto che in questa biblioteca i libri e le presentazioni vengano promossi, vengono fatti conoscere con una cartolina, perché questo mi consente anche di presentare il mio libro con una cartolina, nel senso che ogni libro, se voi prendete, basta che lo girate, no? Il libro è una cartolina con un suo ipotetico destinatario, poi c'è la sua affrancatura, è una cartolina. Anche questo non è un pensiero mio, devo dire, l'ho preso anche questo da Jacques Derrida, ma l'ho trovato illuminante. Jacques Derrida scrive un'opera che secondo me è straordinaria, si intitola La carte postale, e tratta proprio il suo libro e il testo, e parla del testo come una cartolina. Allora pensiamo un attimo a cosa facciamo quando spediamo una cartolina. Ci sembra tutto molto semplice, molto ovvio, no? Cioè, sono in vacanza a Bolzano, devo scrivere ai miei amici che stanno a Roma, dico: ah, che bello, oggi è nevicato, Bolzano molto bello, ho mangiato il mostro, vorrei via la Franco, spedisco l'indirizzo e mi sembra che tutto sia pacifico. Quindi abbiamo un mittente, abbiamo un destinatario sicuro, che è Mario Rossi, che abita a Roma, e ci immaginiamo che appunto questo transito sia un transito senza rischi, senza possibili aperture. Invece in realtà cosa ci dice Derrida? Ci dice: no, un momento, il mittente scrive, ma... e indica un destinatario, ma noi dobbiamo immaginare questa cartolina, che va, questo discorso naturalmente vale per le migliaia di volumi che ci sono in questa biblioteca, magari discoteca, ma vale anche per i dischi, è lo stesso, perché il disco anche può essere immaginato come una cartolina, no? Anche lì si immagina un pubblico, si immagina un destinatario, però ce lo dobbiamo immaginare in transito. Ed in questo transito il messaggio, ciò che abbiamo scritto, può assolutamente cadere nelle mani di chiunque. Chiunque può leggerlo. Ma chiunque può leggerlo in una situazione totalmente rischiosa, nel senso che lo legge non il destinatario. Quindi lo legge una persona a cui il testo capita in modo del tutto casuale, con tutte le conseguenze che ci siamo detti prima, nel senso che quel testo sarà interpretato in modo completamente personale, darà via ad una catena di significanti, ad una catena di associazioni, eccetera, che l'autore non aveva assolutamente previsto. Non solo, darà il via ad una serie di rinvii, e qui c'è un altro concetto molto interessante della scrittura come differenza, come possibilità di superare l'eterno presente nel quale viviamo, sia verso un passato, perché poi in realtà se noi pensiamo al passato ci pensiamo, ma il passato ci voltiamo e diciamo non c'è il passato, poi un attimo dopo diciamo ma il futuro, beh il futuro è avvenire, non lo conosciamo. Ecco, l'unica possibilità di superare questo scacco è proprio la scrittura. La scrittura attraverso il sistema del rinvio ci proietta, ci spinge ad immaginare una parola nel passato, un mondo nel passato, non solo, delle volte arriva dal passato al presente, non so se vi è mai capitato di fare delle ricerche d'archivio o di chinarvi su dei documenti, non so, di fine 800, fine 700, guardando queste piccole impronte, tracce di inchiostro sulla carta, sulla pergamena, in realtà c'è un fenomeno speculare, un gioco di rinvio tra te che stai guardando quei piccoli segni neri che secondo Galileo, verso i quali doveva essere la carta riconoscente, perché è grazie a quei segni neri che la carta poi in realtà sopravvive nel tempo. Nel momento in cui tu stai facendo questa operazione, immagini una persona simile a te che 100, 200, 500 anni prima stava vergando quei segni. Nello stesso tempo tu sei lì e stai facendo una ricerca e i tuoi segni probabilmente tra uno o due secoli saranno letti da qualcuno che farà lo stesso ragionamento. È un gioco, è una vertigine, no? Proiettarsi nella scrittura con questa visione, con questa disponibilità a seguire i rinvii della scrittura. Un procedimento altrettanto stimolante è quello di analizzare i testi non solo per quello che dicono esplicitamente, ma anche per quello che non dicono. È un modo, quello di visitare, cioè di entrare ed uscire dai testi, che rimanda ad un incontro ancora una volta tra noi e il testo. Si può creare un parallelismo tra il fatto di commentare, interpretare, entrare in una scrittura, citarla, e tutto il sistema della citazione che molti di voi penso scrivano anche per lavoro, voglio dire, penso agli avvocati, no? Gli avvocati quando citano una auctoritas del diritto, quando citano il pensiero di Trabucchi, in realtà aprono la loro casa a Trabucchi e nello stesso tempo entrano nella casa di Trabucchi. È un po' quello che succede anche quando le persone si incontrano come ci stiamo incontrando noi adesso. In questo incontro, che non è mai un incontro completo, dicevamo, una parte molto interessante ce l'ha il malinteso. Voi dite, ma adesso ma questo perché ci sta raccontando queste cose? Beh, ve le sto raccontando perché nel mio libro qua e là le trovate. E poi appunto perché penso che sia molto interessante considerare sia la scrittura, sia la presentazione della scrittura un'occasione per riflettere sull'incontro. Allora, all'interno di questo incontro che dicevamo non è mai completo, è interessante vedere che ruolo ha il malinteso. C'è uno straordinario pensatore che si chiama Yankelevich, che ha scritto un bellissimo libro che si intitola La menzogna e il malinteso. E lui teorizza quattro tipi di malinteso. E cioè, l'inganno, Quindi lì nell'inganno c'è una persona che attivamente, attraverso bugie e menzogne, porta l'altro a, a fare un'azione che gli torna utile. Il classico caso di inganno è la truffa. Poi Yankle dice, classifica il doppio malinteso. Doppio malinteso, il caso classico è, non so, vi trovate in un paese straniero, pensate di sapere l'inglese come la maggior parte di noi pensano, che a me è capitato, chiedo un'informazione, l'altro mi ascolta, risponde sicuro, io per non fare brutta figura dico oh yes, I understand, eccetera eccetera, e anche per non fare brutta figura con i miei, con la mia famiglia, dico ma Mario hai capito? Sì sì sì, ho capito tutto. No, invece non è così. Lui, l'inglese, non aveva capito la mia domanda e io non ho capito la sua risposta. Doppio malinteso, entrambi non consapevoli del malinteso. Poi c'è il malinteso beninteso. Malinteso beninteso invece è quando la parte passiva si accorge del fatto che l'altro non si è capito con l'altra persona, però tace. Classico esempio, molto carino. Stasera mi fermo a Bolzano a dormire, a mezzanotte entra una fanciulla bellissima convinta che in quella stanza ci sia il suo amante. Io magari mi guardo bene dal dire no scusa non sono Carlo, e a quel punto in qualche modo, però ecco, sono una parte passiva, io non ho fatto niente. E poi c'è il malinteso doppiamente beninteso. Questo è un altro caso molto interessante. Nel mondo del lavoro, per esempio. Nel mondo del lavoro, spesso, non so, vi sarà capitato, le persone si fanno dei complimenti esagerati. Ma sai, ti ho visto nel processo, ma guarda, la tua ringa, fenomenale, eccetera, eccetera. Tu sai che quello lì, sta pensando assolutamente che la tua ringa era una schifezza. Ma siccome è collega di un'altra persona che per lavoro potrebbe... Ah, ma sì, ma anch'io mi ricordo della tua dell'anno scorso, ma secondo me quella era strepitosa. Allora, tutti e due stanno mentendo, ma per motivi di convenienza, è quello che succede anche in certe coppie, in cui l'uno sa dell'altra, l'altra sa dell'altro, però... Così, per una sorta dice, lasciamo perdere, doppiamente ben inteso. Vabbè, questa è così, era una digressione simpatica, però nonostante questo, poi, non so, altri tipi di malinteso si hanno anche quando tu incontri persone di altre culture, nonostante questo riusciamo a capirci. E questo è molto interessante. Anche per esempio rispetto a certe notizie gonfiate dei giornali, no? Anche qui è un caso di malinteso, beninteso, nel senso che noi sappiamo che anche leggendola quella notizia è assolutamente improbabile, però dentro di noi qualcosa capiamo, pensiamo di capire, e quindi alla fine, anche se la riteniamo una bufola, pensiamo di aver capito qualcosa. Ed è in questo sottile gioco del capirsi e non capirsi che c'è che è insita la sfida dell'incontro, non solo nella scrittura, ma anche tra le persone. Due parole sulla copertina, no? La copertina è ha questa foto, una foto che è quella delle nuvole, quindi è una foto che in qualche modo vuole ispirare leggerezza, altezza, ma anche una certa rarefazione, una certa, così, ancora una volta, pulviscolarità delle cose. E nello stesso tempo ammicca ad un concetto molto interessante, che è un concetto degli anni 20, e ve lo cito perché è una parola molto bella, una parola tedesca, la parola è Luftmensch, non so se l'avete mai sentita, Luftmensch è letteralmente l'uomo dell'aria, no? ma era il termine con il quale i nazisti identificavano gli ebrei, soprattutto gli ebrei poveri, quelli che facevano lavori come il latifendolo, eccetera, cioè persone dall'esistenza precaria e già per questo naturalmente sospette ad un regime che invece ha l'esigenza contraria di, di controllare tutti. Luftmensch permane nella lingua inglese di oggi a significare una persona che non si occupa di cose materiali, ma si occupa solo di cose intellettuali e, secondo un vecchio adagio, carminam non dan panem, ecco, che in parte è vero, in parte per Umberto Eco non è vero, perché per lui carminam dan panem è anzi pure miliardi. E quindi questa definizione di Luftmensch mi piaceva in qualche modo autoaffibbiarmela, anche un po' perché mio padre ancora oggi quando mi chiede ma tu che lavoro fai esattamente? Sono un Luftmensch e quindi siamo a posto in questa cosa. Il colore, vabbè, il colore arancione è non perché aderisco alla seta degli Hare Krishna, era solo una un modo per farsi vedere un po' di più. Invece sul retro ci sono tre frasi, due di autori inventati, quindi dei nom de plume, come anche l'introduzione del libro. L'introduzione del libro l'ho scritta io, firmandola con un nome di fantasia, e così questa trovata, diciamo, questo gioco c'è anche sul retro, tranne che per una frase di Derrida, che è una sorta di omaggio questo grande pensatore, che dice: il libro dei destini, del fato, della sorte, dell'incontro, della possibilità, non lo so, verificherò, ma mi piace quest'idea. Allora, la cosa curiosa è che nessuno ha eccepito che Jacques Derrida non avrebbe mai potuto scrivere una cosa così sul mio libro, perché è morto nel 2004, no? Cioè, e poi comunque non l'avrebbe scritta, perché avrebbe detto: sto libro è una ciufeca, figurati se te scrivo questa cosa. No, e questo è curioso, questo mi ha fatto riflettere, cioè mi ha fatto riflettere per dire: ma come? Io scrivo una frase di uno che è proprio uno sconosciuto, è un filosofo un po' così, un po' di nicchia, ma non è un Carnera, insomma, e nessuno ha eccepito il fatto che ci fosse una frase di Derrida dietro il mio libro. Devo dire che un altro filosofo, quando io gli ho detto ma come mai Derrida è così poco conosciuto, ha detto: vabbè, ma Derrida è molto complesso, poca gente lo legge. Ma vabbè, a me è sembrata una cosa comunque strana. Nello stesso tempo c'era un'altra citazione di Derrida che poteva in qualche modo stare su questa copertina, ed era seguente, dice Derrida: un testo, ecco, poi testo. Così vorrei richiamare la vostra attenzione su una bella immagine, no? Il testo come textum, come tessitura. Platone diceva simploché, un tessuto. Quindi all'interno di un testo ci sono dei fili, alcuni più evidenti, ma altri meno, è come un tappeto e si può vedere appunto da più parti. Dice: un testo non è un testo se non nasconde al primo sguardo, al primo venuto, la legge della sua composizione, la regola del suo gioco. Cosa voleva dire? Voleva dire: non fermarti al significato, cerca i significanti, cerca qualcos'altro. Per esempio, qual è in qualche modo la regola del gioco qui? Questo è un libro che di regole potrebbe averne tante, come tutti gli zibaldoni, poi, come tutte le raccolte eterogenee di pensieri, no? E adesso vi svelo un segreto, non dovrei, ma insomma così ve lo svelo. L'idea di questo libro nasce quando io, giornalista, a un certo punto mi rendo conto di non essere più in sintonia con un certo modo di fare giornalismo, che è un modo di fare giornalismo che probabilmente sperimentate anche qui, che dà la prevalenza alla cronaca nera, agli incidenti, o in qualche modo fatto un paio di articoli sulle locandine di Nera, cioè Schianti, muore a 48 anni, si impicca, eccetera, eccetera. Allora, anche qui vorrei fare notare un paradosso, no? Gridano queste notizie come se fossero cose, no, la notizia in realtà dovrebbe essere qualcosa di strano, cioè qualcosa delle volte che esce dalla normalità, ma in realtà la morte è una cosa più normale che ci sia, cioè non conosco un longobardo, non conosco un romano con il quale fumarmi una sigaretta, no? Eppure la morte ancora è venduta in base ad una regola che vuole il giornale, più venduto se c'è una notizia di Nera, è ancora la notizia più gridata. Io con questo modo di fare giornalismo non sono d'accordo. Che cosa succede se non sei d'accordo né con questo modo di fare giornalismo né col fatto di dare un'eccessiva rilevanza a tutte quelle notizie con connotazioni sessuali più o meno allusive, no? Che anche queste dominano, spopolano, eccetera, eccetera. Che cosa succede? Nel momento in cui tu non sei d'accordo, non sei d'accordo con questa linea, stranamente per i tuoi pezzi non c'è più spazio. Ma sai, avevamo la pagina piena. C'è stato un morto. Sabato sera tre ragazzi sono schiantati. Dico, pochi se ne sono schiantati, nel senso che poverini. Ma, cioè, io li ho visti. Quando alle tre un centinaio di ragazzi sono distesi su un prato a Lignano, non sono neanche in grado di parlare, mezzi svenuti, se quella notte ne muoiono solo tre, come dire, mettiamo un cero alla Madonna, perché questi non erano proprio in grado non erano in grado di fare più niente. E lo stesso vale per tutto il discorso per cui appena cade un po' di neve, non so se è qua, ma appena piove, adesso non faccio riferimento alle ultime alluvioni qua in Veneto, ma appena piove un po', Marca sott'acqua, traffico in tilt, normale, se piove un po' ci sarà un po' più di traffico, no? Ma invece matematicamente io lo so, quando inizia a piovere dalla mattina, io dico, vedrai che domani la locandina è Marca sott'acqua, traffico regolarmente. Il sistema dell'informazione non è assolutamente libero, ma è strettamente legato non solo a delle necessità di audience o supposta tale, ma è strettamente legato alle fonti. Quindi voi un pezzo critico sui carabinieri o sul procuratore di Bolzano, come su quello di Treviso, ma non lo trovate neanche a morire. Immaginate le pagine del giornale come una parete da dipingere. E quella parete va dipinta ogni giorno, perché non c'è la mentalità di dire, vabbè, ma oggi abbiamo notizie per una pagina, facciamo una pagina. No, la fogliazione è 30 e sicuramente in quelle 30 il maggior spazio verrà dato alle fonti. Le fonti sono i carabinieri, la procura, gli uffici stampa degli enti pubblici, delle fondazioni bancarie. Ecco. Queste 4-5 fonti, diciamo, coprono una percentuale molto alta. Torniamo a bomba. Ti permetti di criticare questa cosa, improvvisamente per i tuoi pezzi, per le tue proposte non c'è spazio, perché comunque non rientra in una logica gratificatoria della fonte, perché un domani se quell'ufficio stampa lì potente si accorge che a quella notizia lì hai preferito una cosa indipendente, qualcuno alza il telefono e dice, scusa, ma come mai? Ecco. E questo non è in sintonia con la vita di un giornale. Allora questo blog, questo diario nasce anche, ovviamente non solo, ma nasce anche come una sorta di giornale ideale, nel quale io pubblico notizie e piccoli racconti. Voglio dire, un giorno se non ci sono notizie è più interessante che tu mi ripubblichi il primo capitolo, non so, dei Promessi Sposi, le tesi di Feuerbach, o mi prendi Kierkegaard, o mi prendi Heidegger, insomma, ce n'hai, oppure mi racconti la storia di Artemisia Gentileschi, capito? Se è inutile che mi riempi una paginata, non so, c'è stata una notizia incredibile, in provincia di Treviso ha fatto il giro del mondo, una paginata incredibile sui muli che brucano l'erba ai bordi delle strade, e questo sarebbe una cosa molto ecologica perché impedisce l'uso dei macchinari, insomma, non ci siamo. Allora, questo può essere quindi anche una sorta di giornale ideale, una sorta di baule nel quale ci sono tante piccole curiosità, tante piccole cose. E può essere letto in questa maniera. E può essere letto anche come un libro sulla molteplicità. Perché un'altra cosa con la quale ci dobbiamo confrontare ogni giorno è la molteplicità delle cose che ci interesserebbe fare e che per varie ragioni non riusciamo a fare, perché il tempo è quello che è. È anche una riflessione sul tempo che passa, è una tematica che ci tocca a tutti. È anche una sorta di... di compendio di appunti per un possibile romanzo, lì sullo sfondo, è quello che dice, come dire, Salomon Grossman, che poi sarei io nell'introduzione, effettivamente c'è anche questo, quindi molti livelli. È un pozzo dove ci sono tante, tante cose interessanti, e va letto un po' con questo spirito, quindi non dalla prima all'ultima pagina in modo pedissequo, ma in modo molto, molto libero. E il pozzo, l'ho introdotta questa metafora del pozzo perché mi dà agio così di aggiungere alcune associazioni libere sul pozzo. Il pozzo è un simbolo che io uso spesso nei miei corsi di scrittura, quando qualcuno mi chiama così incoscientemente a dire ma vieni a insegnare. In realtà, adesso così ve la dico tra di noi, non ci sente nessuno, siamo quattro gatti, i corsi di scrittura sono così, un bel incontro intellettuale, eccetera, eccetera. Però in realtà, se una persona... Cioè, si potrebbe veramente sintetizzare, che poi è il consiglio che dava Rilke nei suoi consigli ad un giovane poeta, cioè sintetizzando si potrebbe dire che, e ti potrei consigliare di scrivere solo se scrivere per te è una necessità per sopravvivere, e qui il corso sarebbe finito qui, perché non c'è null'altro da dire, da aggiungere. Si possono insegnare le tecniche, ti posso spiegare la funzione metonimica del testo, del dettaglio, l'uso della metafora, il fatto che racconto un viaggio in un conflitto, che ci deve essere una rivelazione, la funzione del Deus ex machina. Sì, ma se dentro di te non c'è una storia, e c'è in ognuno di noi, ma cos'è che manca? Manca la forza di raccontarla alle volte, questa storia, manca il coraggio, e delle volte manca anche la voglia, delle volte questa storia non si vuole raccontare. L'esempio che faccio è che ognuno di noi è come un pozzo. Prima abbiamo usato la metafora della biblioteca, ma possiamo anche usare quella del pozzo, che è una metafora molto femminile. C'è una bellissima chiesa paleocristiana in Sardegna, sulla penisola del Sinis, la chiesa di San Giovanni, in cui c'è una cripta antichissima, in cui ci sono due simboli pagani, cioè sopra c'è la cripta cristiana, c'è sotto due simboli pagani, uno è il pozzo e un altro è una sorta di lapide, quindi due simboli maschile e femminile. Il pozzo è anche il nostro inconscio, è anche tutte le conoscenze che noi abbiamo acquisito. Quindi io dico sempre, in realtà è lì che dobbiamo attingere quando dobbiamo creare, quando vogliamo scrivere. Ma scrivere è anche una lettera, anche un diario, qualsiasi cosa. Il pozzo poi è protagonista anche di diversi racconti, ne cito solo due. Uno è quello, è una novella del Boccaccio, anzi no, vi cito prima quella di Nasreddin Hoca, che è un è un novellista, filosofo, viaggiatore, tutto del 1200. E voi molte volte avete sentito dire, no, stai cercando la luna nel pozzo. E racconta di questo ragazzino, pastore, errante, nel deserto, eccetera, eccetera, poi incontra questo pozzo e si accorge che la luna, perché la vede riflessa, no? Vede la luna riflessa nell'acqua fonda del pozzo. E dice, oh, povera luna, guarda che fine hai fatto, sei finita nel pozzo, ti devo salvare, no, mentalità infantile, però la storia è interessante poi per come si risolve, perché è una storia semplicissima, ma una storia che adesso io credo, una volta che l'hai sentita, non te la dimentichi più, e quindi vuol dire che dentro c'è qualcosa di archetipo, no? Allora vede questa immagine della luna riflessa nell'acqua e dice, ma povera luna, devo salvarti. Allora prende una corda, cala questa corda e la tira su, però questa corda non prende, no? E allora lui è sempre più disperato, prova e riprova, finalmente la corda naturalmente non si impiglia nella luna, ma si impiglia in qualche anfratto del pozzo. Però naturalmente il ragazzino dice, ah sì, finalmente l'ho presa, e inizia a tirare. Tira, tira, tira, tira, tira, a un certo punto la corda si spezza, lui finisce con le spalle al suolo e la vede in cielo e capisce che l'ha salvata e esulta per averla salvata. Questo è, secondo me, un racconto di una semplicità assoluta, ma nello stesso tempo è denso, ha quella che Calvino chiamava consistency, ha una coerenza ma anche una consistenza. E secondo me la prima cosa che in qualche modo ci insegna è di rovesciare la prospettiva, che poi è comunque un atteggiamento anche decostruttivo. Spesso le cose, guardate, c'è un bellissimo racconto di Borges che narra di uno scrittore che ricopia il Don Chisciotte. Allora c'è un altro che gli dice, no, ma scusa, ma cosa stai facendo? Il Don Chisciotte l'ha già scritto Cervantes. E dice, ma no, ma Cervantes è scritto nel 500, io lo scrivo nel 1920, è un'altra cosa. Effettivamente, se noi lo leggessimo con gli occhi, se noi provassimo a leggere il Don Chisciotte con gli occhi attuali, naturalmente coglieremo delle cose, ed ecco ancora una volta il discorso sul testo come rinvio, no? Le cose molto diverse, ed è un po' quello che fa il bambino quando cade rinvio. Cadiamo in un altro pozzo. Andreuccio da Perugia, cozzone di cavalli, novella del Boccaccio. Va a Napoli convinto di vendere per X denari il suo cavallo, in effetti ci riesce, però nei vicoli di Napoli incontra una bella napoletana che gli dice, ah, ma Andreuccio, ma fa proprio carino, qua e là, e in qualche modo lo seduce, lo porta nel suo appartamento, succede quello che deve succedere, poi a un certo punto con Andreuccio si accorge che i suoi vestiti ci sono ancora, la bellissima napoletana è sparita, ma sono spariti pure i soldi per tornare a casa. Allora, disperatissimo, non sa come venire a capo di questa situazione. E vaga per le vie di Napoli e poi assetato si sporge in un pozzo e ci cade dentro. E quindi un guaio dopo l'altro. A questo punto non sa come uscire. Inizia a gridare, a un certo punto passa di là una brigata di ladri e lo raccoglie e lo coinvolge in un'azione criminosa in termini molto contemporanei, e si tratta di rubare l'anello prezioso di un vescovo che è all'interno di una tomba, all'interno di una chiesa. Allora, però Andreuccio, sai, non era stupido, pensava al fatto che non poteva tornare indietro senza i denari. Allora, quando lo calano dentro il sarcofago, lui prende l'anello e quegli altri gli chiedono, ma ascolta, ma no, non c'è niente, se non che a un certo punto arriva qualcuno, i ladri scappano, il sarcofago si chiude e lui rimane dentro prigioniero. La faccenda poi si risolve a un certo punto perché sentano le sue grida, persone diverse naturalmente dai ladri, lo liberano e lui se ne esce con questo anello. Anello che da un lato torna, no, questa forma tonda dell'anello, perché il pozzo in fondo, se tu lo guardi, ha questa forma sempre anulare, no? E questo ci porta in un'altra storia, no? Se adesso andiamo via per un percorso, cioè seguiamo un percorso associativo, no? Di anello in anello c'è un altro anello interessante che però che ha una funzione completamente diversa, in una novella che cita invece sempre Calvino nelle sue Lezioni americane, ed è una leggenda che riguarda Carlo Magno. Nel capitolo della rapidità, questo anello, cosa succede? Carlo Magno si innamora di una ragazza tedesca molto bella e per questa ragazza lascia perdere tutti i suoi affari, tant'è che tutta la corte è preoccupatissima. Poi però per una malattia improvvisa la ragazza muore, tutta la corte tira un sospiro di sollievo, però Carlo Magno dice no, è troppo bella, la fa imbalsamare. Fa imbalsamare e continua ogni mattina a recarsi in preghiera da questa ragazza, che la corte continua a preoccuparsi, dice cavolo, pensavamo che fosse risolto il problema. Allora il vescovo, il cui nome è Turpino, dice ma fammi capire meglio, perché c'è qualcosa che non torna. Ispeziona questo cadavere imbalsamato e trova sotto la lingua di questa bella ragazza un anello. Diciamo di vedere che fosse l'anello magico. Allora, si impossessa di quello, toglie sotto la lingua e si impossessa dell'anello. Cosa succede? Succede che Carlo Magno si innamora di Turpino, che era proprio il massimo, perché no? Cioè, non c'era ancora questa sorta di atteggiamento politically correct nei confronti noi dei gay, diciamo, sì. E allora, però Turpino, che evidentemente aveva anche altri gusti, altre tendenze, dice no, vabbè che è l'imperatore, però capì, intuisce che probabilmente c'è qualcosa di collegato all'anello della ragazza e getta quest'anello nel lago di Costanza. Naturalmente potete immaginare come finisce la storia. Carlo Magno passa il resto della sua vita sulle rive del lago di Costanza. Apro una parentesi, il rinvio è al mito di Narciso che si specchia nell'acqua, e secondo alcuni si specchia nell'acqua innamorato dell'immagine che vede, secondo altri l'immagine che vede nell'acqua è diversa da quella che vorrebbe avere. Sono due mondi. Mm-hmm. Però il bello dei miti è proprio questo. E rimaniamo sulla forma circolare, però. Forma circolare introduce un'altra bellissima novella, questa volta di Kafka. La novella si intitola Der Kübelreiter. Der Kübelreiter è il cavaliere del secchio. Siamo nella Praga degli anni 20, è inverno e c'è questo Luftmensch, persona che vive gli espedienti, che si ritrova senza carbone. Si ritrova senza carbone e poi, come qua ci sono 18 gradi la sera, diventa un po' difficile sopravvivere. Allora decide di uscire alla ricerca di carbone e sceglie anche un modo un po', come dire, bambinesco di scendere le scale. Praticamente si mette a cavalcioni del secchio vuoto e vroom, scende giù per tutte le scale. Se non che è arrivato alla fine, invece che fermarsi, prende il volo. Cioè il secchio in qualche modo lo porta in alto. a questo punto tra secchio e e il proiettile del barone di Münchhausen c'è qualche analogia che non è assolutamente, è tutta letteraria, nel senso che uno è un libro del Settecento, Kafka scrive nel Novecento, però in tutta la letteratura l'idea del volo a partire da Icaro è qualcosa che ritorna nei racconti, nei romanzi, nelle novelle. Allora abbiamo questo nostro Luftmensch che per le vie di Praga se ne va a cavallo di questo secchio e va dove? Naturalmente va dal carbonaio. C'è una complicazione però, che essendo un Luftmensch non ha i soldi per pagare il carbone. Non solo, no? Essendo sul secchio, che viaggia ad una certa altezza, non riesce neanche ad abbassarsi. E allora arriva alla casa del carbonaio, ma non a livello della cantina dove c'è il carbone, ma a livello della casa dove c'è la moglie del carbonaio, che non vuole assolutamente dargli del carbone, tanto più a credito. I due parlano un po', tergiversano, il carbonaio da sotto sente che c'è qualcuno, e però la moglie gli fa capire che non è niente di importante, e a un certo punto, muovendo solamente il suo camice, il suo Schürzen, si direbbe, no? E con un leggero movimento di questo... mi viene a parlare tedesca, Schürzen, del grembiule, ecco lì. E basta questo leggero movimento del grembiule per creare uno spostamento d'aria tale che il Kübelreiter se ne va verso i paesi dei ghiacci, dice, racconta Kafka, nel paese del Nimmer Wiedersehen, cioè del mai più arrivederci. Anche qui è molto interessante questo racconto che abbiamo in qualche modo cucito sempre attraverso una forma tonda, una forma circolare che dall'anello ci ha fatto passare al pozzo, dal pozzo ci fa passare al secchio. Ed è anche qui un vuoto, e quante volte ci capita di in qualche modo di sentirci vuoti, di sentirci carenti di qualcosa. Apro una digressione. Tornando alla palla di cannone viene in mente anche il racconto di Visconte dimezzato di Calvino, no? Tagliato a metà da questa palla di cannone. E viene in mente anche il mito di Tiche. Tiche è la dea greca del caos, che è questa del caso, che è questa dea che va in giro con una palla che rimbalza a segnalare la totale casualità del suo intervento. Ma torniamo invece al secchio vuoto. Questo secchio vuoto è che porta in alto, quindi l'apparente mancanza, l'apparente assenza, ma anche l'assenza che diventa assenza di peso, permette un'elevazione, permette un viaggio speciale. Forse la scrittura è un po' come il volo di questo Kübelreiter, cioè la scrittura nasce laddove c'è una mancanza, laddove c'è un'assenza, laddove c'è una nostalgia, laddove c'è un vuoto da colmare, forse la scrittura aiuta ad elevarsi in volo, aiuta a raggiungere nuovi spazi. Possibilmente non del non arrivederci, perché insomma vorremmo ancora un po' rivederci. E mi piaceva a questo punto concludere con delle bellissime parole di Neruda, che da confesso che ho vissuto, perché in fin dei conti in apparenza ci siamo intrattenuti con delle parole, ma in realtà ci siamo intrattenuti con dei rinvii, penso. Tutto quel che vuole, sì signore, ma sono le parole che cantano, che salgono e scendono. Mi inchino dinanzi a loro, le amo, mi ci aggrappo, le inseguo, le mordo, le frantumo, amo tanto le parole. Quelle inaspettate, quelle che si aspettano golosamente, si spiano finché ad un tratto cadono. Vocaboli amati brillano come pietre preziose, saltano come pesci d'argento, sono spuma, filo, metallo, rugiada. Inseguo alcune parole, sono tanto belle che le voglio mettere tutte nella mia poesia. Le afferro al volo, quando se ne vanno ronzando le catturo, le pulisco, le sguscio, mi preparo davanti il piatto, le sento cristalline, vibranti e gurne, vegetali oleose, come frutti, come alghe, come agate, come olive. E allora le rivolto, le agito, me le bevo, me le divoro, le mastico, le vesto a festa, le libero. Le lascio come stalattiti nella mia poesia, come pezzetti di legno brunito, come carbone, come relitti di naufragio, regali dell'onda. Tutto sta nella parola. Tutta un'idea cambia perché una parola è stata cambiata di posto, o perché un'altra si è seduta come una reginetta dentro una frase che non l'aspettava e che le obbedì. Hanno ombra, trasparenza, peso, piume, capelli, hanno tutto ciò che si andò loro aggiungendo da tanto rotolare per il fiume, da tanto trasmigrare di patria, da tanto essere radici. Sono antichissime e recentissime. Vivono nel feretro nascosto e nel fiore appena sbocciato. Bene. Grazie a voi. Se avete qualcosa da le tue parole sono città della speranza, forse. Sì. L'idea di devolvere interamente i proventi di questo libro alla città della speranza, diciamo che è un'idea che è nata anche questa un po' per associazione, nel senso che Padova sento Padova come la mia città, nel senso che ci ho studiato, ci ho conosciuto mia moglie e quindi la sento molto, molto vicina a me. La città della speranza è da noi è veramente molto conosciuta ed è anche, come dire, la fondazione molto aiutata da questo amico architetto che è Paolo Portoghesi, il quale ha progettato per la Fondazione della Città della Speranza un intero ospedale. La Fondazione della Città della Speranza sostiene la clinica onco-ematologica pediatrica di Padova, quindi tutte le malattie infantili collegate appunto ad una degenerazione del sangue, potete immaginare insomma quanto dolore, ma anche quanto sforzo e quanta volontà c'è in questa istituzione. Ed per me insomma è stato naturale dedicare un libro anche alla Città della Speranza, perché penso che insomma ognuno di noi abbia anche un dovere di riconoscenza, no? nei confronti della vita, e se può fare qualcosa per gli altri ci riusciamo veramente talmente poco, anche se è una piccola cosa, e non facciamola, ecco. Questo era un po' il senso. E poi c'è un altro pensiero un po', come dire, un po' più teorico, nel senso che io penso che l'arte, la letteratura, in modo molto idealistico, utopistico, non dovrebbero avere una funzione di profitto, però mi rendo conto che questa, come dire, è solo una riflessione molto utopistica. Ecco. No, è giusto che ci sia un discorso. Che Grazie a voi. Buona giornata. Come il Manzoni, i miei. Sì. anzi, anzi quasi quasi lo batto. Il successo postumo è garantito. Sì, infatti io che ho parlato di Derrida per anni. Vabbè, devo iniziare. Andiamo a mangiare. Continuiamo a pranzo? Sì, continuiamo a pranzo. Grazie per essere stati qui. Grazie. Lo so. Lo so.